suitcase of hope. A bundle of belongings isn't the only thing a refugee brings to his new country. Buon pomeriggio e benvenuti a Suitcase of Hope, il programma che cerca di raccontarvi in modo diverso l'immigrazione, la fuga dalla miseria e dalla guerra. Oggi vi parliamo di un evento molto importante che ci può servire ad approfondire queste tematiche, che si svolgerà proprio a Bologna. 10 anni di Fortezza Europa, 10 anni di Terra di Tutti Film Festival, l'appuntamento con i documentari e il cinema sociale del sud del mondo ritorna a Bologna dal 12 al 16 ottobre. Per parlarne noi siamo al telefono con Stefania Piccinelli, che è direttrice artistica. Buongiorno Stefania. Buongiorno a tutti e a tutte. Sono 10 anni e quindi è già un bel traguardo, no? Sì, è un traguardo veramente quasi incredibile per quel che mi riguarda, visto che appunto nel 2007 insieme a Jonathan Ferramola di Costa abbiamo lanciato insomma questa sfida a noi stessi, alle nostre organizzazioni, quindi GVC e Cospe e alla città. Mai avremmo pensato che saremmo arrivati dopo 10 anni ancora con questo festival, e soprattutto con un festival che alla fine in 10 anni è rimasto molto molto fedele a quella che era la sua mission iniziale. Quindi è un festival che è rimasto a ingresso gratuito, che è un festival molto anomalo, perché in realtà il cinema è una scusa, non è proprio un festival di cinema, è un festival per parlare di diritti, sviluppo e insomma tutti quei temi, migrazioni e quei temi che ci stanno a cuore, che facciamo molta fatica come organizzazioni non governative a farli entrare in maniera seria nel dibattito media mainstream, e che invece siamo riusciti a far arrivare con il festival in maniera, a mio avviso, che continua a essere molto seria, molto sui temi, molto per dare punti di vista in un mondo che è sempre più complesso e sempre più intercorrelato e che insomma ci pone nuove e vecchie sfide. In questa edizione i temi che affrontate sono ancora, se possibile, più attuali, visto anche il dibattito europeo sul tema delle migrazioni, ma visto anche la cronaca, e in particolare appunto voi dedicate questa edizione ad Haiti. Sì, in realtà ad Haiti l'abbiamo deciso appunto in queste ore. È stato un caso, diciamo, un caso che però dimostra il fatto che quanto la nostra sensibilità sia centrata su degli spazi, dei posti e dei tempi che valgono la pena insomma essere portati alla luce. Haiti è un paese poverissimo, è un paese che è uscito dalla guerra, è stato colpito pesantemente dal terremoto, e che ora viene colpito ancora una volta appunto da questa natura. La questione che è fondamentale, insomma, di cui vogliamo parlare, è che una cosa del genere succedesse in un posto in cui le case sono costruite con delle fondamenta, in cui non c'è la povertà che c'è ad Haiti, chiaramente le conseguenze non sarebbero quelle che abbiamo sotto gli occhi. Quindi comunque la causa di fondo è la povertà estrema in cui la gran parte della popolazione di questo paese vive, che è un pochino l'Africa nell'America Latina, Haiti. Sono tanti i film in programma, 60 se non sbaglio, e sono 10 le sezioni, giusto? Sì, sono tanti film, sono tanti luoghi. Io ci tengo a dire due parole sull'apertura di questo festival, che sarà mercoledì 12 in Sala Cervi, quindi in Cineteca in via Riva di Reno. Torniamo alle origini, perché nel 2007 tutto il festival si è svolto in Sala Cervi. nuovi, e apriamo appunto con Fortezza Europa, che da 10 anni è la sessione con cui apriamo il Terra di Tutti Film Festival, e io credo che questa la dica lunga sulla cosiddetta emergenza migrazioni. È una tragedia annunciata di cui che noi denunciamo e di cui parliamo da 10 anni, e che oggi più che mai è veramente sotto i nostri occhi. Oltre 60 milioni di persone al mondo devono scappare da casa loro per emergenza o appunto per catastrofi naturali, o molto più spesso per catastrofi create da noi esseri umani, e una situazione del genere mai c'è stata dalla Seconda Guerra Mondiale. Quindi insomma non so se ci rendiamo conto dell'epoca storica in cui viviamo, che però è una tragedia annunciata, perché questa della frontiera e della gestione delle frontiere dell'Europa insomma non è una novità, e quindi apriamo appunto con questa retrospettiva. Abbiamo selezionato 6 film dalle edizioni precedenti, appunto apriamo proprio sul tema migrazioni, apriamo appunto con Araga Guantanamo, che è un cortissimo girato da Giulia Bondi, che sarà presente a presentarlo, cioè poi in realtà montato da delle scene girate per lo più con il cellulare da un migrante, diciamo, che questa attraversata l'ha fatta. Tra gli altri, come dire, approfondimenti che farete, oltre al tema delle frontiere? Sport, quindi andiamo su qualcosa di più, dopo aver parlato di Haiti, che appunto sarà comunque oggetto di venerdì 14, quindi al Cinema Europa dalle 16 alle 19, ci sarà questo Uno Sguardo sul Caraibe con dei film appunto su Haiti, e quindi invitiamo anche quello. L'altra, insomma, diciamo che è difficile scegliere, però sicuramente una novità e una sessione che ci interessa, su cui abbiamo anche organizzato un evento e attraverso la quale anche la rete del festival si è allargata, è quella su sport e integrazione, che sarà giovedì 13 alle 19:30 al TPO, e appunto parleremo di genere, perché è box girl, e parleremo di calcio, e appunto abbiamo anche organizzato insieme, in collaborazione con WISP e Xunt Leones, un piccolo torneo di calcio, quindi insomma appunto per parlare dei vari modi in cui l'integrazione può essere o può non essere. Tra gli ospiti del festival, insomma, personaggi nazionali e internazionali, a presiedere la giuria ci sarà Saleh Bakri, giusto? Esatto, che è attore palestinese, proprio perché ha testimonianza che il Medio Oriente rimane sicuramente uno dei focus importanti, e la questione palestinese con lui appunto, e quindi siamo molto onorati che Saleh Bakri abbia accettato il nostro invito in giuria, e quindi arriverà a Bologna, farà parte della giuria del festival, e riteniamo che sarà anche un modo molto importante per parlare di Palestina in un momento in cui mai i media sono stati così silenziosi, ma è proprio diventata fuori completamente dall'agenda mediatica e insomma di questo Medio Oriente, che purtroppo è martoriato su vari fronti, e questo per il popolo palestinese è chiaramente molto grave, perché poi succedono cose senza che nessuno se ne curi, ecco. Quindi riportare l'attenzione su quell'area di mondo per noi è molto importante, e questo è sicuramente un modo per farlo. Ecco, si parlerà anche dei Panama Papers, e uno dice: ma perché parlare di uno scandalo finanziario? Ah, proprio perché è un film bellissimo, tra le altre cose, direi verso la chiusura di Terra di Tutti. È importante perché è un mondo, il nostro, intercorrelato, e questo scandalo sicuramente ci dimostra quanto, fino a che punto lo sia, e fino a che punto sia iniquo e sia iniqua la redistribuzione delle ricchezze, perché come non ci sono mai stati dal dopoguerra a oggi così tante persone che scappano dalla guerra e dalla miseria, così si sta andando verso una ridistribuzione del reddito sempre più iniqua, quindi con grandi concentrazioni di ricchezze nelle mani di poche, la maggioranza che rimane con poco o niente. Tra l'altro al festival ci sarà anche un giornalista che fa parte dell'istituto di appunto di investigativo di giornalisti che ha scoperto questo scandalo, no? Benoît Bringer. Esatto. E lui sarà presente anche a un workshop invece previsto nella mattinata di sabato. Esatto, che è un workshop su media and migration. Continuiamo appunto il percorso che avevamo cominciato l'anno scorso, dove all'interno di una conferenza più ampia su migrazione avevamo organizzato un panel di, a nostro avviso, grande interesse, invitando appunto giornalisti internazionali e nazionali a proprio a riflettere sul ruolo dei media rispetto alle migrazioni. Quest'anno continueremo andando appunto ad analizzare, insomma, a chiacchierare con protagonisti, quindi con giornalisti e con persone che frequentano i media al di là anche dei giornali e delle testate, diciamo, più di media più classici, quindi anche tutto quello che sono i social media e tutte le informazioni che ne escono, e questo sarà in comune. Mi dai il là per chiederti le varie location del festival? Saremo in apertura appunto in Cineteca in Sala Cervi, e poi ci spostiamo anche un po' in concomitanza dalle 19 al TPO, dove saremo tutto mercoledì e giovedì. E tra le altre cose presenteremo anche con un evento questo film di Harvest, prodotto da SMK Video Factory qui di Bologna, che è un interessante lavoro appunto sul migrazione e appunto produzione di cibo eccetera eccetera qui in Italia. Quindi mercoledì e giovedì saremo al TPO, venerdì saremo prima al Cinema Europa dalle 16 alle 20:30, poi ci sposteremo a Dinamo con una sessione di proiezioni e una serata, insomma, quindi un qualcosa di più leggero. Sabato saremo al mattino in comune per questa panel su Media and Migration, e poi ci sposteremo a Lumière, dove chiudiamo tutto sabato e domenica. Comunque io ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici appunto l'indirizzo del sito dove trovare tutto il programma, che è terradituttifilmfestival.org. Grazie mille intanto e buon festival. Bene, grazie a voi, e insomma speriamo di vedervi al festival. Make fa abbiamo sentito le parole di Stefania Piccinelli del GVC, che condivide la direzione artistica con Jonathan Ferramola del COSPE, che è stato raggiunto dal nostro William Piana nel corso della conferenza stampa che si è tenuta ieri. Sentiamo le sue parole. Beh, è cambiato principalmente dai soggetti della rete che ne fanno parte, nel senso che se prima eravamo solo due ONG che di mestiere fanno altro perché fanno cooperazione e sviluppo e che non avevano mai organizzato un festival così strutturato di cinema e di cultura cinematografica del sud del mondo, in 10 anni abbiamo messo dentro una rete di soggetti, dai documentaristi Emilia Romagna, passando per Chinodromo, per Dinamo La Velostazione, le Serre, la Cineteca di Bologna, tanti soggetti della rete bolognese, non solo, che ci appoggiano, ci sostengono, ci offrono spazi di visibilità e anche solo idee, suggestioni. Quindi insomma ci sentiamo parte di una struttura, di un movimento che da questo punto di vista ha come obiettivo comune e prioritario quello di raccontare delle storie, le storie di popoli in lotta per i diritti, in lotta per la difesa di un territorio, per il ripristino di un concetto di comunità, tanto da noi quanto al sud. Quali percorsi abbiamo quest'anno? Quest'anno abbiamo alcuni percorsi narrativi molto approfonditi e interessanti, uno di questi è Sport Integrazione, legato proprio a nell'anno delle Olimpiadi e Paralimpiadi, sostanzialmente al il racconto dello sport attraverso storie di diritti, di riscatto e di integrazione sociale, sia per i nuovi cittadini migranti con l'oro di Napoli, sia per tipo una squadra femminile come Tanger Goal o Box Girl, quindi sport femminile che in un qualche modo aiuta una categoria come le donne a uscire da uno stato di emarginazione sociale. Un altro filone è la Fortezza Europa, che sviluppiamo in Sala Cervi, qui a Lumiere, anche al TPO, ovvero diritti delle comunità migranti, migrazioni, accoglienze sui nostri territori, cioè la politica di una e la civiltà, il livello di civiltà di uno stato lo si determina anche dal grado, da capacità di accoglienza che questo ha, e la Fortezza Europa racconta questo. Un terzo filone sono i beni comuni, le cooperative solidali, l'economia sociale solidale, insomma attraverso un progetto come SUSI gestito da COSPE noi abbiamo messo in rete 25 soggetti in tutta Europa e attraverso questi raccontiamo delle storie di riscatto, buone prassi di convivenza, di economia circolare e dal basso e partendo dalla comunità, quindi anche una lettura positiva che non ha solo conflitti, non ha solo carestie. Poi avremo tanto Haiti, racconteremo storie dell'ISIS, storie di Boko Haram e dell'Africa, racconteremo delle donne combattenti curde piuttosto che dei paradisi fiscali dei Panama Papers, insomma tante finestre come sempre, Terra di Tutti è un grande condominio che apre finestre sulla realtà e sul cinema del reale. Giusto poco fa abbiamo avuto una testimonianza importante. Sì, noi invitiamo ogni anno registi, attori, produzioni dal sud a venire a portare le loro storie qui e i loro film, abbiamo invitato anche Dima Al-Jondi del film Echo of the Shadow che andrà sabato a Lumière, proprio questo film sostanzialmente la produzione ha deciso di invitare, noi l'abbiamo appoggiato con una lettera di invito, l'attore Orwa Kultum, che venendo in Italia ha scoperto una storia drammatica che lui stesso ha raccontato a noi per la prima volta stamattina, di non avere più accesso in Siria, di non poter più tornare né in Siria né in Libano perché è cittadino non desiderato, e quindi sta affrontando proprio in queste ore la drammatica decisione di dover abbandonare amicizie, famiglia e tutto il suo percorso professionale per tentare la strada della richiesta di asilo politico in Italia, insomma una strada non facile. Tutto il programma su terradituttifilmfestival.org. ¡Suscríbete! Mentre vi stiamo parlando, si sta svolgendo l'opening party del Terra di Tutti Film Festival. Siete ancora in tempo ovviamente ad andare al TPO, dove verrà presentata l'anteprima del film The Harvest, realizzato da SMK Video Factory, una casa produttrice di documentari di Bologna, che parla di sfruttamento e caporalato nelle nostre campagne. Noi abbiamo raggiunto il regista Andrea Paco Mariani, sentiamo le sue parole. The Harvest è il nostro nuovo film che stiamo girando come SMK Video Factory in questo 2016, ed è un film che toccherà e affronterà il tema del caporalato agricolo in Italia, in particolar modo però concentrandosi su una zona ben precisa che è quella dell'Agro Pontino e con una comunità ben precisa che è la comunità Sikh, che vive nell'area da diversi anni e con famiglie, con figli nati in Italia, quindi una comunità che vive stabilmente nella zona. In particolare questo sfruttamento, il caporalato avviene nelle serre? Sì, la questione della serra è sicuramente molto anche simbolica rispetto a quello che è il tipo di sviluppo che l'agricoltura intensiva ha avuto nell'area. La serra viene anche usata da noi come simbolo di quello che è la situazione che stiamo raccontando. Quello che chiaramente emerge e che ci ha subito spinto nella scelta di fare questo film sono proprio le storie che abbiamo trovato sul territorio e nei luoghi che abbiamo visitato nei mesi scorsi durante i sopralluoghi, e la cosa che ci colpì molto all'epoca fu che, ahimè, voglio dire, di fenomeni di caporalato sappiamo bene che sono purtroppo diffusi in questi anni, sono tornati molto con prepotenza in diverse zone d'Italia, ma in quella zona assume una caratterizzazione molto particolare, innanzitutto perché è completamente nascosto, quindi non è visibile come altre storie di caporalato che abbiamo avuto modo di sentire tutte e tutti in questi anni, ma è la cosa ancora più preoccupante è che all'interno di un preciso e scientifico metodo di organizzazione economica. Voi denunciate caratteristiche tipiche del caporalato come violenze, paghe da fame, ma c'è anche un elemento ulteriore che è quello del doping per far lavorare le persone. Esatto, la cosa che ci ha fatto scoprire queste storie poco più di un anno fa, quando abbiamo iniziato la fase di ricerca del film, è stata proprio la questione del doping. Chiaramente, come potete intuire, un fenomeno come questo, ovvero persone che vengono pagate in media 2-3 euro l'ora e che quindi sono costrette a lavorare molte ore durante la giornata e molti giorni durante la settimana, una delle perversioni potenziali che si va a generare, che come potete intuire è l'impossibilità di reggere questi ritmi. Purtroppo il fenomeno del doping, che non è altro che un mix di diverse sostanze che viene in qualche maniera vengono utilizzate da alcuni di questi lavoratori, risponde esclusivamente a questa esigenza, cioè a riuscire a reggere dei ritmi di produzione così pesanti e così disumanizzati, se vogliamo. Non solo persone costrette a lavorare a questi ritmi, con questi orari e con questi salari così bassi, spesso sotto delle serre. Per chi non lo sapesse, una serra in un periodo primaverile estivo ci sono 60 gradi sotto una serra, quindi anche in condizioni sanitarie, se vogliamo, molto preoccupanti. Non bastava tutto questo, ha iniziato a svilupparsi anche questo fenomeno del doping tra i lavoratori. Non è chiaro quanto questo sia avvenuto, diciamo, dall'alto o quanto sia una scelta scaturita dai lavoratori stessi, ma poco importa, è comunque una degenerazione del sistema e della situazione, e quindi è un dato estremamente preoccupante. Il film avrà uno stile particolare, una sorta di docu-musical? Sì, diciamo che la sfida che ci stiamo ponendo è quella di non abbandonare quello che è lo stile, anche se vogliamo, di SMK, Video Factory, dei suoi documentari, quindi documentari comunque di denuncia, ma cercheremo di innestare anche una parte più, se vogliamo, cinematografica. Da un lato, in senso stretto cinematografica, nel senso che il film comunque avrà dei personaggi che poi in realtà sono dei personaggi reali, noi raccontiamo attraverso il racconto della loro vita, raccontiamo un pezzetto di questa storia che stiamo raccontando, ma ci sarà anche una parte di forte componente musicale, diciamo un forte innesto di musica all'interno del film, nel senso che noi stiamo facendo tutto un lavoro di ricerca anche con le contaminazioni musicali del Punjabi, perché appunto le comunità Sikh arrivano dalla zona del Punjab, che è un'area dell'attuale India, e quindi abbiamo cercato di fare anche un lavoro di ricerca musicologica in questa direzione. Hey! E questa puntata di Suitcase of Hope termina qui, vi ricordo che potete riascoltarla sul sito radiocittafujiko.it in podcast, dove trovate anche altre suggestioni sul Terra di Tutti Film Festival. Noi ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre alle 18, un buon proseguimento sulle nostre frequenze.